Hertner. Hertner. Akai. Hertner dell'Università di Darmstadt, mi pare. Di Darmstadt, sì, dell'Università Tecnica di Darmstadt, Technische Hochschule. Il tema che il professore ci esporrà è un tema particolarmente importante nel dibattito storiografico del nostro paese in questo momento, perché in effetti noi siamo abituati, la storiografia almeno italiana si è abituato a concepire i rapporti tra Germania e Italia durante la fase che è stata al decennio 80 della prima guerra mondiale, più che altro sul versante dei legami che legano insomma l'Italia alla Germania sul piano della cultura, sul piano degli apporti anche organizzativi in chiave politica o in chiave del movimento operaio, sul piano degli apporti dal punto di vista così gli apporti personali, di esperienza sul versante industriale, sul versante così finanziario, bancario. Ma la storiografia italiana, almeno per quanto riguarda la storiografia economica, non ha ancora chiarito gli apporti non solo di esperienza, ma bensì appunto di capitale, di investimento della Germania nei confronti dell'Italia. O almeno ha sottolineato questi apporti per quanto riguarda le strutture delle banche miste. No, anche recentemente il professor Confalonieri nei suoi lavori sulla storia delle banche appunto durante la fase post-unitaria ha ripercorso ancora questo aspetto e da un lato ha confermato l'importanza dell'apporto del capitale tedesco nella formazione della banca commerciale e dall'altro ha però posto in evidenza la temporaneità e i limiti di questo apporto. Comunque noi siamo in attesa di avere in proposito ulteriori stimoli, ulteriori apporti e quindi pensiamo che la relazione del professor Hertner ci aiuterà a cogliere meglio, a situare meglio le nostre conoscenze in proposito. Grazie dell'introduzione gentile. Innanzitutto devo scusarmi per l'italiano che parlerò, che non sarà perfetto, e prego tutti di chiedermi subito se c'è qualcosa che non è corretto. Ci sono tante difficoltà linguistiche, lo so, e spesso sono sicuro che spesso qualche cosa sfuggerà all'udienza e così vediamo. La partecipazione di capitale straniero nell'economia italiana prima della prima guerra mondiale è stato un fatto conosciuto durante parecchi decenni prima del 1914, ma senza che questo avesse lasciato molte tracce nella discussione pubblica, sia sui giornali o altre pubblicazioni, sia nei dibattiti del Parlamento o nei discorsi politici. Tutto questo cambiava radicalmente quando, dopo l'agosto del 1914, la partecipazione italiana nel conflitto europeo rimaneva in sospeso. Pochi mesi dopo cominciava la grande offensiva propagandistica degli intervenzionisti, che conosciamo oggi abbastanza bene grazie alle ricerche di Vigezzi e Monticone, e loro non si stancavano di accusare le macchinazioni dei giolittiani filotripicisti dietro le quali vedevano soprattutto il capitale tedesco. Secondo loro questo gruppo filotripicista avrebbe dominato tutta l'economia italiana e così impedito al paese di ritrovare il suo vero destino nazionale, continuando il glorioso passato del Risorgimento con la liberazione di Trento e Trieste. Sarebbero soprattutto le grandi banche, in primo luogo la Banca Commerciale Italiana, le quali, dominate dal capitale tedesco, avrebbero comprato a Giolitti i suoi seguaci e buona parte della stampa. Nel 1915, poco prima dell'entrata d'Italia in guerra, e anche nei mesi dopo, escono diverse pubblicazioni, quasi tutte nella collana della Libreria della Voce, fra le quali la più conosciuta anche a causa del titolo, l'opera di Giovanni Preziosi, futuro fascista, La Germania alla conquista d'Italia. Lì, e poi anche in modo crescendo sulle pagine del nuovo giornale L'Idea Nazionale, sono elencate le partecipazioni tedesche nell'industria italiana. Dati che spesso non sono corretti, per dare un esempio, parecchie società nelle quali il capitale tedesco aveva una partecipazione intorno al 1900 sono diventate completamente italiane nel 1914, senza che Preziosi ne prenda nota. Accanto alle partecipazioni si accusa anche la crescente aggressività del commercio tedesco in Italia. Il paese sarebbe inondato da merce tedesca abilmente venduta ai clienti italiani dal commesso viaggiatore tedesco presente ovunque dal Piemonte alla Sicilia. Gli attacchi di Preziosi e compagni finiscono poi nell'accusa alla Comit e in modo molto minore anche al credito italiano di essere legati all'alta finanza tedesca e di favorire perciò l'impegno dell'industria tedesca, sia con investimenti diretti sia con importazioni massicce, spesso con una politica del dumping sul mercato italiano. Contemporaneamente, nella primavera del 1915, uscì una pubblicazione di Francesco Saverio Nitti col titolo Il capitale straniero in Italia. Basandosi sui registri del Ministero delle Finanze per le società straniere operanti in Italia e soggette alla tassa sul bollo, Nitti computa per la fine del 1913 una somma complessiva del capitale nominale straniero in Italia che si aggira attorno ai 440 milioni di lire, senza le società di assicurazione e alcune società di navigazione mai entrate in funzione. Nitti dà anche un elenco di queste società straniere. È esatto secondo le mie ricerche sulla base della fonte originale e si vede che il capitale inglese, francese e belga viene largamente prima, per esempio, del capitale tedesco, che giunge soltanto ai 28 milioni, delle quali 12 soltanto per le filiali italiane delle due grandi società di navigazione, la Hapag di Amburgo e il Norddeutscher Lloyd di Brema. Secondo Nitti, questa cifra complessiva per tutto il capitale straniero in Italia, cito, è però al di sotto della realtà, ma non se ne discosta troppo. Con l'aiuto di queste cifre, Nitti può concludere che il ruolo del capitale straniero in Italia è senz'altro stato importante nel processo di sviluppo del paese, ma che è anche stato sopravvalutato. Specialmente quello tedesco. Stranamente che io sappia, le cifre di Nitti non sono mai esplicitamente state messe in dubbio. E quando si tratta del problema del capitale straniero in Italia prima del 14, il suo libro è sempre citato come fonte di base, come classico quasi, benché ci siano adesso nuove pubblicazioni che dimostrano o sul livello regionale come quella di Doria per Genova o sul livello settoriale come Mori per l'industria elettrica, Confalonieri per il sistema bancario, quanto fosse inadeguato l'accesso aperto da Nitti a questo problema. In parentesi devo dire che non voglio perciò dubitare della sua seriosità scientifica, che mi pare abbia dimostrato sufficientemente in tante altre occasioni. Il Nitti, infatti, come abbiamo visto, si era limitato alle società fondate all'estero, secondo la rispettiva legislatura commerciale, le quali avevano deciso di stabilire una filiale in Italia. E questa è la forma giuridica nettamente preferita dal capitale inglese e belga, e fino ad un certo punto anche francese. Il capitale tedesco e svizzero, invece, ha regolarmente preferito di fondare una società giuridicamente italiana, magari nominandola espressamente società italiana di e dandole un presidente italiano, preferibilmente un nobile o un senatore del regno, come indicatore di rispettabilità, ma riservandosi o la maggioranza delle azioni o almeno una minorità di controllo. La statistica di questi investimenti la vedremo nel pomeriggio. Posso presentare una tabella o due tabelle con le date che ho colto finora. Adesso, prima di occuparci più dettagliatamente di questi problemi, dobbiamo tentare di chiarire alcuni punti di carattere piuttosto metodologico. Prendiamo prima la distinzione tra investimenti diretti e investimenti di portafoglio, portfolio investments in inglese. Gli economisti definiscono investimenti diretti gli investimenti che mirano al controllo di una società o di una compagnia commerciale. Questo naturalmente possono essere 10% delle azioni se il resto è distribuito tra una massa di piccoli azionisti non organizzati, dunque 10% bastano, ma in un altro caso anche 49% non basterebbero. Dunque è difficile stabilirlo. Per gli economisti teoricamente è una cosa facile, si dice, sia il controllo. Per gli storici dell'economia e anche per gli statistici bisogna avere una misura più formale. Potremmo prendere per esempio una partecipazione straniera di almeno 25% per poi poter parlare di un investimento diretto. Questo per esempio ha fatto il US Board of Trade per gli investimenti americani all'estero. Ma anche qui è un modo di definizione. Possiamo anche prendere 10%, ma io mi sono deciso per 25%. Per le società tedesche 25% sono importanti perché con 25% di capitale in una società per azioni si può controllare in un certo modo, secondo la legislazione commerciale tedesca. Dunque, se vogliono, è un po' l'aspetto visto dalla Germania. Tutti gli altri investimenti sarebbero investimenti di portafoglio, cioè investimenti fatti senza l'obiettivo del controllo, ma unicamente sotto l'aspetto della loro redditività. Il termine portafoglio non deve ingannarci, anche se la maggioranza degli investimenti di portafoglio consiste da titoli trasferibili in borsa, questo non è una condizione sine qua non. È sempre l'obiettivo del controllo che decide. Dunque non si deve pensare, se si parla di investimenti di portafoglio, che sono soltanto investimenti in titoli. Investimenti in titoli possono anche essere investimenti diretti. Dunque questo termine investimento di portafoglio è un po', come si dice, ingannevole, grazie. Diamo adesso un breve sguardo sui motivi che stanno in fondo di tali investimenti all'estero. Prendiamo prima gli investimenti diretti. Qui c'è tutta una discussione molto intensa nel corso degli ultimi anni, quando le società multinazionali furono al centro dell'interesse, non soltanto degli economisti, ma anche di un pubblico molto più vasto. È una cosa abbastanza complicata e non possiamo entrarvi. Prendiamo soltanto due caratteristiche per questo investimento diretto. Primo, il fenomeno oligopolistico. Il fenomeno che si è visto guardando agli investimenti diretti negli ultimi decenni, che normalmente è una ditta di una certa grandezza, una ditta che si trova in una situazione oligopolio, poche ditte in un mercato controllato che vanno all'estero per fare questi investimenti, ma ne parleremo ancora. E poi questo che l'americano Stephenheimer ha chiamato i vantaggi monopolistici sul mercato straniero, cioè una società nazionale che decide di andare all'estero prende questa decisione soltanto se conta su concreti vantaggi monopolistici nel mercato straniero. Questi vantaggi monopolistici possono essere vantaggi sul mercato dei beni che vende, cioè per esempio un alto grado di differenziazione dei prodotti e nuovi metodi di smercio. Questo sempre paragonato alla situazione delle ditte nel paese di ospite, cioè se una ditta tedesca decide di andare in Italia, lo fa perché dice: noi sul mercato italiano abbiamo certi vantaggi monopolistici che non hanno le ditte italiane, altrimenti non vale la pena farlo. Secondo, vantaggi sul mercato dei fattori di produzione, cioè per esempio un facile accesso ai capitali, un accesso più facile paragonato all'accesso che hanno le ditte nazionali, e mostrerò subito alcuni esempi concreti. Una protezione tecnologica, per esempio con patenti, con brevetti, o una superiorità del management, un fatto che negli anni 50, per esempio, si è detto che l'invasione americana dei mercati europei era anche conseguenza della superiorità del management americano. Se è vero, sarei molto cauto, ma almeno l'hanno detto. Terzo, quello che in inglese si chiama economies of scale, non so come si dice in italiano. Economia di scala. Grazie. I vantaggi che derivano da una produzione di massa. Dunque, se una ditta nel suo paese d'origine ha già questi vantaggi, può anche usufruirne nel mercato straniero. E quarto, intervenzioni statali del paese ospite, cioè la protezione doganale o altri metodi di favoreggiamento dell'industria nazionale, quello che sono i non-tariff, i vantaggi che non derivano dalla tariffa di protezione, ma sono vantaggi molto, molto concreti, come per esempio commesse statali che sono date soltanto alle ditte nazionali. E questo quarto punto mi pare molto importante per la situazione italiana prima del 14. Vedremo gli esempi molto concreti. Adesso, dopo questa trattazione degli investimenti diretti, veniamo agli investimenti di portafoglio. Come esplicazione per questi investimenti di portafoglio possiamo sempre scegliere la teoria tradizionale secondo la quale è il tasso effettivo dell'interesse che decide. Dunque, se io compro rendita italiana, la compro perché mi dà un interesse più alto della rendita tedesca. Bisogna comunque scontare il fattore del rischio. Questo è un punto molto importante anche per la situazione prima del 14, perché c'erano stati, per esempio, gli stati dell'America Latina che avevano ogni tanto una bancarotta di Stato, più o meno, che non pagavano gli interessi. C'è tutta una storia, per esempio, per gli investimenti di portafoglio britannici nel Colombia, nel Messico, nell'Argentina, che durante decenni nell'Ottocento non rendevano nessun interesse. Dunque, c'è un fattore del rischio. Se l'interesse sul mercato inglese era 2 o 3%, l'interesse di questi titoli sudamericani era per esempio 8, 9, 10, 11, 12%. E questo comprende un fattore, questo fattore del rischio, che è scontato con l'interesse più alto. Dunque, dobbiamo dire che il tasso estero deve comprendere il tasso nazionale più il fattore del rischio e poi essere ancora più alto per incitare un nazionale di andare all'estero e di comprare titoli esteri. Naturalmente questo fattore del rischio è difficilissimo a quantificare, è una cosa che normalmente gli economisti lasciano in dubbio e non si sono mai pronunciati molto, molto chiaramente su questo problema, lasciano agli storici e gli storici non ne dicono niente su questo problema. Torniamo allo sviluppo reale e prendiamo alcuni esempi di investimenti tedeschi in Italia prima del 14 per illustrare quei due tipi di investimento. Dunque, il quadro statistico lo dobbiamo mostrerò nel pomeriggio. Adesso alcuni case studies, casi precisi. Nel 1887 la Maschinenfabrik Esslingen, una ditta meccanica fondata negli anni 40 a Esslingen presso Stoccarda nel Württemberg, che costruiva locomotive, aveva deciso di fondare una filiale in Italia, le cosiddette costruzioni meccaniche di Saronno presso Milano. Questa filiale era in questo caso anche giuridicamente una filiale della società madre tedesca, non una società fondata secondo la legislazione commerciale italiana. La partecipazione della Maschinenfabrik Esslingen prima era attorno ai 50% e dal 1896 in poi 100%, quando i partners italiani erano usciti. Naturalmente si pensa subito alla tariffa doganale del 1887, la prima tariffa di protezione veramente effettiva. C'era già una nel 1878, ma era abbastanza mite ancora. Ma c'è stata una discussione molto intensa tra Gershengorn e Romeo sull'effetto di questa tariffa dell'87, Gershengorn dicendo che siccome questa tariffa gravava non soltanto sulle macchine importate in Italia, ma anche sui prodotti semilavorati, e siccome l'Italia non aveva una industria siderurgica molto potente, mancanza di carboni, eccetera, anche l'industria meccanica italiana, che doveva importare i prodotti semilavorati, l'acciaio e tutto questo, non poteva tirare veramente grandi vantaggi di questa tariffa. Io direi che questo, al mio avviso, questo è corretto, e per questa fondazione delle costruzioni meccaniche di Saronno si può anche mostrare che è piuttosto la politica della domanda statale che era decisiva, cioè le commesse delle ferrovie, e queste ferrovie, le ferrovie italiane, erano come si dice, erano società private che adesso ho problemi linguistici, che avevano in concessione, erano concessionari del sistema ferroviario, ma era sempre lo Stato che faceva le commesse per il materiale, le materiel roulant, e lo Stato italiano nel 1885 aveva deciso, con la fondazione della società ferroviaria del Mediterraneo eccetera, di lanciare un grande programma di investimento, ma una larga parte di questi investimenti era riservata all'industria nazionale, e negli anni seguenti questa parte riservata al mercato nazionale era sempre crescente. Qui si può vedere che ci sono precisi decisioni statali. E i managers della Maschinenfabrik Esslingen, questo lo si può vedere nelle fonti, si sono decisi perché hanno detto: se vogliamo ancora vendere locomotive in Italia, dobbiamo investire nel paese. Dunque, è il punto quarto che ho menzionato, intervenzione statale, che era decisivo per questo investimento. Poi c'è... non abbiamo il tempo di occuparci più a lungo di questo caso specifico, ma ci sono alcuni casi che dobbiamo ancora vedere. Questa fabbrica di Saronno aveva, dopo alcuni anni, era in grande difficoltà, perché le commesse statali per le ferrovie erano veramente, era una cosa un po' caotica. Per 4 anni erano molto intensi e dopo lo Stato non voleva più niente, dunque le commesse scendevano a zero. Cosa fare? Uscire dal mercato italiano o no? Qui naturalmente si vede il vantaggio di una società, se vogliamo, multinazionale, cioè se prendiamo questo caso piuttosto formale, con più di una filiale all'estero. La società madre dava delle commesse per altri paesi alla filiale italiana per farla sopravvivere, e questo per almeno 10 anni. Questo si può provare molto concretamente. Dunque a Saronno si producevano locomotive per l'America Latina, per l'India olandese, eccetera eccetera. Commesse che probabilmente la filiale italiana non avrebbe ricevuto senza essere filiale di una grande società multinazionale tedesca. Poi un altro fattore è la dipendenza strettissima tecnica dalla società madre. Non c'è un ufficio di disegno e un ufficio di costruzione a Saronno, tutto è mandato da Esslingen. E quando la società di Esslingen vuole vendere la officina di Saronno nel 1906, quando la situazione è molto più favorevole, perché nel 1905-6 c'era la statizzazione delle ferrovie in Italia con un programma di investimento vastissimo, e loro si sono detto: adesso possiamo vendere, la situazione è favorevole. Gli italiani interessati si sono tirati fuori dicendo: ma manca tutto il programma di tecnico. Se noi compriamo Saronno, compriamo soltanto una officina senza, se vogliamo, un corpo senza... senza braccia. Senza anima. Senza cervello. È questo che volevo dire, scusi. Poi un altro problema che mi pare molto interessante, tipico per queste relazioni multinazionali. Questi italiani che nel 1906 vogliono acquistare la ditta di Saronno dicono: ma se vediamo i vostri bilanci di Saronno, vediamo che voi avete sempre avuto, siete sempre stati in deficit da almeno 12 anni. Poi i managers tedesco rispondono: ma sono i bilanci, ma noi possiamo manipolare i bilanci come vogliamo, perché sono i prezzi della società madre, che la società madre domanda dalla società figlia, che decidono i profitti di Saronno. Naturalmente, se i prodotti semilavorati, i disegni e tutto questo ha un prezzo molto alto, il profitto di Saronno è molto basso, dunque non si pagano i tasse o quasi no. E questo mi pare è un modello molto preciso sul comportamento di una società multinazionale, almeno sul comportamento teoricamente possibile. E qui abbiamo un caso preciso. Oggi tutti ne parlano, ma non hanno le prove veramente, perché naturalmente queste società non aprono i loro archivi. Dunque, in questo caso direi che la scienza storica può, almeno può mostrare qualche parallelismo di comportamento, anche se adesso sono 60-70 anni, ma almeno avviso niente ha cambiato, ma questo è una valutazione molto soggettiva. Dunque nel 1887 c'è un altro investimento della Maschinenfabrik Schwarzkopf di Berlino, che fonda un silurificio a Venezia. Questo silurificio deve produrre siluri per la marina militare italiana. Lo fanno soltanto perché la marina italiana ha detto: se voi volete venderci i vostri siluri dovete investire in Italia. Dunque questo è un caso classico di intervenzione statale. Quando alla fine degli anni 90 la marina italiana non chiede più siluri da questo silurificio, lo chiudono. Nel 1901 è chiuso. E naturalmente la decisione è presa a Berlino e non a Venezia. Un terzo caso, ma sarà l'ultimo. Nel 1906 la società Mannesmann tedesca fonda una società, Tubi Mannesmann, a Dalmine presso Bergamo. Qui ci sono vantaggi tecnologici molto precisi che ha questa filiale italiana. Prima, la filiale italiana ha il vantaggio tecnologico di avere il brevetto per i tubi senza saldatura, il brevetto Mannesmann. Dunque una tecnica molto avanzata. Secondo, la filiale italiana produce acciaio elettrico, una cosa molto interessante per l'Alta Italia, che manca carbone, ma che ha l'energia elettrica. È stato un italiano, Stassano, nel 1898, di essere uno dei pionieri della produzione dell'acciaio elettrico, ma stranamente, forse non è così strano, questa tecnica in Italia non riusciva tanto, riusciva molto più intensamente in Francia, in Scandinavia, nel Canada, là dove c'era l'energia idroelettrica nelle Alpi francesi, nella Scandinavia centrale, ma non i carboni. Dunque per l'Italia sarebbe stata una bella occasione. Soltanto il problema era soltanto che qui c'erano anche brevetti, e questi brevetti erano molto differenziati. Scegliendo un brevetto francese, la società Mannesmann era evidentemente fortunata e così poteva produrre questo acciaio, perché diceva per questi tubi senza saldatura abbiamo bisogno di un acciaio molto speciale. Dunque questi due vantaggi tecnologici sono al mio avviso anche decisivi per questo investimento. E poi sempre il terzo caso, le commesse statali, che dopo il 1906 vanno da parte della Marina italiana dei comuni italiani per esempio per gli acquedotti eccetera. Si vede dunque che questa società almeno il 60% della sua produzione è venduta allo Stato italiano o ai comuni italiani. Anche qui si può mostrare molto chiaramente, se si vede le fonti, la corrispondenza tra direttore italiano, direttore tedesco e banca tedesca, che c'è manipolazione dei profitti. Dunque che i profitti fatti in Italia sono o più alti o più bassi di quei reali, secondo la volontà della società madre. Una volta sono più bassi, non si vuole pagare tante tasse. una volta sono più alti perché si vuole mostrare agli azionisti tedeschi questa filiale italiana ereditizia. È anche un problema molto interessante, mi pare. Dunque, questi tre casi mi parano essere molto abbastanza importanti, anche sotto un altro punto di vista, sul quale torniamo presto. Nei tre casi non c'è intervento di una banca italiana. Il capitale è fornito dalle banche tedesche. E la Comit, per esempio, dalla fondazione della società Dubi Mannesmann di Dalmine vuole intervenire, si offre un credito. È anche rappresentato nel consiglio di amministrazione, ma i tedeschi dicono non vogliamo la Comit nella nostra ditta. Anche se quello che noi chiamiamo in tedesco Hausbank vuol dire la banca di casa, più o meno, della Mannesmann è la Deutsche Bank. La Deutsche Bank ha contatti molto stretti con la banca commerciale, ma soltanto nel 12 la Deutsche Bank dice al direttore generale della Mannesmann: ma dobbiamo far entrare la commerciale perché sarebbe meglio avere anche un po' di capitale italiano dentro, eccetera, eccetera. E nel 12 la banca commerciale entra con un credito in conto corrente. Soltanto durante la guerra, quando i contatti tra Germania e Italia, durante la neutralità italiana e anche dopo il 15, c'era un anno quando l'Italia era in guerra contro l'Austria-Ungheria, ma non con la Germania. I contatti vanno attraverso la Svizzera, ma in questo momento è la Comit che può prendere controllo della Dubi Mannesmann. Dunque la banca italiana era interessata moltissimo in questo investimento che probabilmente stimava interessante, ma soltanto dopo l'uscita dei tedeschi. Anche negli altri casi che conosco, non soltanto in quei, il capitale italiano entra molto, molto più tardi. All'inizio è soltanto il capitale tedesco. Negli anni 80 è chiaro perché manca un po' il partner italiano di banca, ma dopo la fondazione della commerciale del credito italiano teoricamente sarebbe una situazione diversa, ma non è stato così. Bene, adesso prendiamo alcuni casi di investimenti di portafoglio, investimenti tedeschi. Qui c'è naturalmente un contatto molto più stretto tra politica estera e investimento. Un contatto che per gli investimenti diretti è difficile stabilire, direi. Si potrebbe dire che gli investimenti diretti tedeschi degli anni 80 sono risultato della triplice alleanza, eccetera, ma sarebbe difficile provarlo. E poi dopo il 1902, quando le relazioni italo-francesi erano di nuovo abbastanza stretti, anche se l'Italia non usciva dalla triplice alleanza, c'erano anche investimenti diretti tedeschi, come abbiamo visto, la società Dubi Mannesmann, dunque questo non prova niente. È diverso per gli investimenti di portafoglio, direi. Già nel 1802, quando c'era un contrasto italo-francese crescente per la questione di Tunisi, il ambasciatore italiano a Berlino, il conte de Delaunay, ha detto che il governo italiano dovrebbe usufruire del mercato di capitale di Berlino per i suoi bisogni. Dans ce moment où nous travaillons à réserver nos liens d'amitié avec l'Allemagne, il serait de bonne politique de confondre en partie nos intérêts financiers mutuels. Ma è chiaro che Delaunay, che è sempre stato un partigiano, Si dice partigiano? No. Sì. Partisan. Non vuol dire un partigiano. Sostenitore. Un sostenitore molto fervido dell'alleanza italo-tedesca. Lui non, in questo caso era forse un più, aveva forse avanzato un po' troppo, perché il governo italiano non ne voleva sentire. Ma nel 1883 c'è un primo investimento diretto tedesco massiccio della Deutsche Bank per il prestito della città di Roma, 150 milioni di lire. Questo non vuol dire che non ci sono stati investimenti prima, negli anni 60 eccetera, era piuttosto banche di Francoforte, perché negli anni 60 era Francoforte il mercato di capitale tedesco più importante, soltanto negli anni 70-80 era Berlino che prendeva la parte di il posto di Berlino, di Francoforte, ma erano sempre banche private in contatto con banche francesi, non era, diciamo, era sempre un consorzio italo francese, tedesco, britannico, dunque non un intervento autonomo, direi, e anche quantitativamente non era mai così importante. Poi nel 1885, quando c'era la fondazione della Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo, banche tedesche, soprattutto la Discontogesellschaft, ma anche la Banca Oppenheim di Colonia, la Dresdner Bank, la Darmstädter Bank, partecipavano con 20% al capitale di 135 milioni di lire, dunque una somma abbastanza importante, e queste partecipazioni poi erano vendute sul mercato di capitale tedesco, e per quello c'erano diciamo una grande distribuzione di titoli ferroviari italiani in Germania fino al 14, questo è un fatto conosciuto. Non voglio trattare ogni caso di investimento diretto di portafoglio qui, ma poi mi pare un caso interessante sia nel 1888, quando c'è l'inizio della guerra commerciale tra Italia e Francia, quando la rendita italiana scende disastrosamente sul mercato di Parigi, Crispi chiede a Bismarck in un telegramma, attraverso anche l'ambasciatore de Launay a Berlino, il capitale tedesco di intervenire. E Bismarck dice al suo banchiere, se vogliamo, di casa di nuovo, Bleichröder, di formare un consorzio, e questo consorzio è formato per stabilire il costo della rendita, cioè di comprare titoli italiani e così impedire la futura ascesa della rendita italiana, del suo corso. Questi, se vogliamo, achat de stabilisation, che cose, sì, acquisti di stabilizzazioni, sono fatti negli anni seguenti, dall'88 in poi, in maniera crescente. Ma in fondo cosa volevano questi banchieri? Volevano fare un favore al governo tedesco per stabilire la triplice alleanza, o cosa volevano? In fondo lo facevano soltanto per avere una situazione di privilegio sul mercato italiano e poi per fare veramente acquisti massicci e di essere sempre inclusi, compresi nelle grandi operazioni di emissione di titoli italiani. Al mio avviso questi investimenti, che vanno dal 87-88 fino al 1893, poi finiscono quasi bruscamente, hanno stabilito il governo Crispi e la sua politica aggressiva contro la Francia, perché senza questo sostegno tedesco non c'era nessun altro mercato di capitale che avrebbe potuto intervenire. I britannici non erano interessati, poi nel 1890 c'è questa grande crisi del mercato argentino col l'asso della casa Baring, eccetera. Dunque i britannici non potevano intervenire, erano soltanto i tedeschi o i francesi. Crispi si è deciso per il mercato tedesco, ma poi dipendeva anche di questo mercato. Il problema era soltanto che il mercato francese non era sostituibile dal mercato tedesco, perché il mercato tedesco era troppo stretto, non aveva la potenza del mercato francese, e questo lo vedremo ancora dopo. Dunque, in tutte queste operazioni vediamo una certa parallelità tra potere politico e potere finanziario, che per esempio nel 1888 la banca imperiale, la Reichsbank, si è mostrato ha detto che noi prendiamo impegno questi valori, questi titoli italiani. Era un favore speciale, perché normalmente i titoli stranieri non erano presi impegno dalla banca centrale. Cosa vuol dire prendere impegno? Questo che noi chiamiamo in tedesco Lombardzins, che le banche d'affari tedesche, così dando impegno questi titoli italiani, potevano ricevere nuova liquidità dalla banca centrale. Dunque potevano rifinanziarsi con questo metodo. Questo dunque era un favore speciale, e la banca imperiale, e questo si può mostrare molto chiaramente, l'ha fatto soltanto a causa dell'intervento del governo di Bismarck. Allo stesso tempo, un anno prima, nell'87, di un tratto aveva rifiutato questa presa impegno di titoli russi. Questa era una misura di Bismarck contro la Russia, per impedire, per forzare la Russia di accettare un nuovo trattato di commercio. E questo era, se vogliamo, l'inizio, la fine dell'alleanza tedesco-russa e l'inizio dell'alleanza franco-russa. Non era forse l'unico fattore, ma era un fattore molto importante. E parallelamente, un anno dopo, c'è questo favoreggiamento dei titoli italiani. Dunque qui vediamo molto precisamente le relazioni tra politica estera e politica finanziaria. Se guardiamo alle cose un po' da un punto di vista quantitativo, possiamo vedere per esempio il pagamento di interesse per la rendita italiana. Qui ci sono statistiche italiane ben definite, edite dal Ministero del Tesoro, e secondo queste statistiche nel 1888-89 112 milioni di lire di interesse erano pagati a Parigi, 7,8 milioni lire a Londra e soltanto 8,9 milioni di lire a Berlino. Dunque c'è una stragrande maggioranza pagata a Parigi. Due anni dopo, a Parigi sono soltanto 78 milioni, a Londra 6 milioni, a Berlino già 62 milioni. Dunque tra due anni, nel periodo di due anni, la situazione è cambiata. E un anno dopo, A Parigi c'erano 75 milioni, 6 milioni a Londra e 72 milioni a Berlino. Dunque Berlino aveva quasi giunto all'altezza di Parigi. Questa relazione doveva stabilirsi su questo livello più o meno per alcuni anni, per poi alla fine degli anni 90 scendere perché la rendita italiana rientrava nel paese, cioè l'accumulazione di capitale in Italia era tale e la volontà degli italiani e anche diciamo, la fiducia nella propria rendita era tale di far rientrare la rendita dall'estero, che per esempio dall'estero nel paese, perché all'inizio degli anni 90 più della metà dei titoli erano pagati all'estero. Questo mi pare molto interessante. Nel 1898 a Parigi sono 830 milioni, a Berlino 397, a Londra 157. Dunque è di nuovo Parigi che ha preso l'avanzo, come si dice? Il sopravvento. Sì, il sopravvento. Nel 1910, per dare ancora una cifra, soltanto 750 milioni di lire di rendita o di titoli di Stato italiano si trovano ancora all'estero. 300 milioni in Francia, 180 in Germania, 150 in Svizzera, 50 in Inghilterra e 70 in altri paesi. Dunque è sempre la Francia che viene in testa. Mi pare che per concludere questo problema degli investimenti di portafoglio, mi pare molto significativo il fatto che quando c'è la conversione della rendita italiana che inizia nel 1903, ma in fatto è realizzata soltanto nel 6 a causa della guerra russo-giapponese, eccetera, eccetera, che le partecipazioni tedesche sono molto deboli già. Per questo nel pomeriggio vedremo alcuni documenti che adesso non voglio entrare nei dettagli, ma che mostra le spiegazioni per la debolezza del mercato tedesco, che mi pare molto interessante anche per gli investimenti diretti e specialmente per gli investimenti nel settore bancario, che adesso vediamo in secondo luogo. Dunque, questo investimento di portafoglio tedesco è forte soltanto dalla fine degli anni 80 alla metà degli anni 90, poi scende. Dunque è una cosa abbastanza breve e che passa col tempo. E che era senz'altro anche che c'era senz'altro una certa connessione con la politica estera, con la lenta uscita dell'Italia dalla triplice alleanza, lo direi almeno diciamo il distacco che l'Italia prendeva dalla triplice alleanza, dalla Germania, dall'Austria-Ungheria, non era impedito da legami finanziari. Direi che forse questa posizione negativa sarebbe quella più adatta alla situazione reale. Bene, andiamo adesso alle banche, al problema delle banche, che mi pare merita ancora qualche minuto di trattamento. Il buco nel settore degli cosiddetti istituti ordinari di credito, verificatosi dopo la completa disfatta e le seguenti liquidazioni delle due maggiori banche di credito, il Credito Mobiliare e la Banca Generale, nel 1893-94, fu colmato da due investimenti precisi, due nuove banche. Il 10 ottobre 1894 viene fondata a Milano la Banca Commerciale Italiana. 79% del capitale nominale di 20 milioni di lire sono sottoscritti da banche tedesche di Berlino, cosiddette D-Banken, Deutsche Bank, Dresdner Bank, Diskontogesellschaft, Darmstädter Bank, Nationalbank für Deutschland, eccetera, e da Bleichreuther come grande banca privata. 13% dal credito austriaco di Vienna e 7,5% da tre banche svizzere, fra l'altro il credito svizzero di Zurigo. C'è una minima partecipazione italiana, che poi era un po' cresciava un po' perché le banche tedesche davano una parte della loro partecipazione a banche italiane. Dopo qualche settimana giungono come sottopartecipanti altre banche tedesche, svizzere e austriache e anche alcuni istituti minori italiani. Per la fondazione della Comit c'è un consenso del governo tedesco e di Crispi. La storia della fondazione è una storia molto lunga, che comincia nell'ottobre del 1893 e che finisce un anno dopo. Qui non abbiamo il tempo di discuterne, ma è molto interessante di vedere tornare dei tedeschi che vengono in Italia, che trattano con gli italiani, poi non sono contenti, tornano in Italia, dopo due mesi ritornano, eccetera, eccetera. Dunque era una nascita difficile, direi, in un certo modo, e c'era molta diffidenza da parte dei tedeschi, perché è chiaro, se qualche mese prima i maggiori istituti di credito falliscono, forse non è il paese da investire. E all'inizio sono stato dunque molto cauti. Decisivo dall'inizio è il ruolo dei due direttori centrali, Otto Joel e Federico Weil, tutti e due tedeschi e ebrei. Ebrei è importante perché poi c'è la propaganda antisemitica di Preziosi durante la Prima Guerra Mondiale contro i tedeschi e gli ebrei nella Banca Commerciale. Joel era prima ispettore generale della Banca Generale, Weil direttore della sede di Palermo del credito immobiliare. Dunque c'è una continuità, non si può dire che questi tedeschi sono venuti nel momento della fondazione della banca, erano in Italia già da 20 anni più o meno. Joel è nato a Danzica nel 1953 e poi è venuto in Italia con 17 anni per ragioni di salute. Poi è tornato in Germania per qualche anno e poi si è stabilito in Italia. Questo mi pare molto interessante. I tedeschi, e si vede anche dalle lettere scambiate tra banche tedesche e italiani, che i tedeschi fondano le banche soltanto se questi uomini di fiducia entrano come direttori. Diversa la fondazione dell'altro istituto di il credito italiano all'inizio del 1895. Proviene da un istituto regionale, la Banca di Genova, fondata nel 1870, duramente provato nella crisi dei primi anni 90. Doveva ridurre il capitale da 20 milioni a 3 milioni di lire. Dunque, veramente una quasi liquidazione. Il capitale iniziale del credit sono 14 milioni di lire. Di questi 14 milioni di lire, 3,5 milioni di lire sono sottoscritte dalla banca Von Willer di Milano, una banca di origine svizzera, ma stabilita in Italia già da decenni. 3 milioni dalla banca Warschauer di Berlino, una banca privata di Berlino, e dalla banca Manzi di Roma, ma Warschauer aveva già una partecipazione nella Manzi prima, dunque c'è una, non so come dirlo, ma Dunque è difficile stabilire esattamente le rispettive parti nazionali. Dopo poco tempo c'è una partecipazione anche della Banca Commerciale di Basilea e della Nationalbank für Deutschland. Tutte queste banche straniere partecipanti al credito sono piuttosto di secondo ordine. Già qui si vede la posizione, si annuncia quasi simbolicamente il ruolo di eterno secondo giocato dal credito relativamente alla banca commerciale. Malgrado la parte minore del capitale straniero nel credito, la dipendenza durante i primi anni dalle banche fondatori pare essere ancora più stretta. Warschau si prende un monopolio per tutte le operazioni straniere, ma anzi per tutte le operazioni sulla piazza di Roma. Dei 14 membri del Consiglio di amministrazione, 4 sono stranieri, 2 di Warschau, 1 della Nationalbank für Deutschland, 1 della Basler Handelsbank. Nella banca commerciale la partecipazione straniera si sviluppa nel modo seguente. La parte tedesca diminuisce assolutamente da 29.000 azioni nel 1895 a 8.500 nel 1900 e più ancora relativamente. Nel 1900 la partecipazione tedesca nella banca commerciale si aggira soltanto attorno ai 10% e nel 1904 a 5% e nel 1914 a 2,4%. Perché i tedeschi non partecipavano agli aumenti diversi di capitale. Cresce invece la parte svizzera, normalmente è una cosa molto trascurata perché i svizzeri non sono un fattore politico, ma sono quasi ovunque nell'industria italiana. Per me è un caso interessante, ma molto difficile da ricostruire. Perché questi svizzeri stanno in Italia da 100 anni, sono sempre svizzeri, ma sono già italianizzati, hanno sempre la nazionalità svizzera. Come dire, sono italiani o svizzeri? Ma ne torneremo nel pomeriggio. Nel 1900 la partecipazione svizzera è già 21%, nel 14 20,5%. E quella francese, che comincia con l'entrata della Banque de Paris e dei Pays-Bas nel 1899 con 9% e finisce nel 1914 con 14%. La parte italiana aumenta cospicuamente, come per la rendita, è un parallelismo. Nel 1900 68% del capitale della Comit sono possedute dagli italiani, nel 1914 63%. Paribas, la Banque de Paris et des Pays-Bas, entra all'occasione di 2 aumenti di capitale nel 1899 e 1900, ogni volta con la quota di 28% del capitale totale. Ma questo non dice niente per la distribuzione, vedi la quota relativamente bassa del 1901. E quello che mi pare un fattore molto importante. Si parla sempre di partecipazione di capitale, ma queste banche, tedesche soprattutto, ma anche francese, e la Paribas era organizzato molto sul modello tedesco. Era la banca francese più tedesca, se possiamo dire, più secondo il modello di banca mista. Loro partecipano all'aumento di capitale, ma poi vendono questi titoli sul mercato ai loro clienti. Non hanno interesse di avere un pacchetto di, non so, di 20% del capitale della Comit. A che cosa serve? A loro basta avere un uomo di fiducia nel consiglio di amministrazione. Con 20% di capitale, troppi mezzi sono immobilizzati all'interno della banca. Per il bilancio della banca è importante avere una liquidità, e anche per gli affari ordinari. Ne torneremo per il ruolo speciale della banca mista, che al mio avviso è spesso non è considerato nel modo più adatto. Per l'interessamento francese ci sono ragioni molto precise. Il miglioramento dei rapporti politici e commerciali, espressamente menzionato da Joël dopo il 1896-98 il trattato commerciale con la Francia, l'astensione delle banche tedesche. Joël scrive alle banche tedesche, ma perché non volete partecipare agli aumenti? Voi siete i padri della banca, più o meno. Ma loro si astengono perché dicono che hanno difficoltà di blasmo sul mercato tedesco per queste azioni, perché c'è una certa diffidenza verso i valori italiani. C'erano perdite abbastanza importanti con valori italiani all'inizio degli anni 90, con alcune società commerciali, per esempio la società di navigazione La Veloce, dove capitale tedesco era investito, ma investitori tedeschi in questa società di navigazione hanno perduto metà del capitale. Dunque la stampa commerciale tedesca probabilmente non faceva la buona stampa, si dice da noi, per i valori italiani. Poi c'è il problema dell'alta richiesta interna di capitale. Lo sviluppo intenso dell'economia tedesca dopo il 1895-96, come quella italiana, è un fenomeno internazionale. Ma è chiaro che lo sviluppo tedesco era estremamente dinamico per le nuove industrie chimica e elettrotecnica. Con quella situazione, cioè la distribuzione del capitale azionario contrasta la distribuzione dei seggi nel consiglio di amministrazione. E qui do due anni di confronto. Nel 1896 abbiamo 21 membri, dei quali 8 italiani, 7 tedeschi, 3 austriaci e 3 svizzeri. Nel 1914 abbiamo 33 membri, perché la politica... Nel 96 8 italiani, 7 tedeschi, 3 austriaci e 3 svizzeri. Nel 1914 abbiamo 33 membri del Consiglio di amministrazione, perché era la politica più elegante per Joël, per esempio. Non voleva mettere alla porta i tedeschi, doveva per forza introdurre gli italiani. Cosa fare? Ma aumentare il numero dei partecipanti è una cosa comune nel mondo politico, lo conosciamo tutti. Aumentiamo il numero dei ministri e i governi vanno avanti. Con 33 dei 33 membri del consiglio di amministrazione, 15 sono italiani nel 14, 8 sono tedeschi, perché a qui Joël e Weil sono inclusi, perché sono compresi, perché adesso sono nominati amministratori delegati, dunque da direttori sono diventati amministratori delegati e fanno parte del consiglio di amministrazione e alla stessa volta del direttorato, una cosa che nella legislazione tedesca non è conosciuta, è tipicamente italiana e francese. Poi 4 francesi, 3 austriaci e 3 svizzeri. Dunque, malgrado la partecipazione molto più alta francese, hanno soltanto la metà del numero dei amministratori nel consiglio di amministrazione. Questo è anche il punto d'attacco degli interventisti nel 15. Il credito italiano invece ha molte difficoltà interne nei due primi anni, fino all'ingresso di Enrico Rava, figura dominante come direttore centrale come io e lui nella Comit. Anche qui ci sono molti dirigenti tedeschi e questo è sempre stato sottovalutato. Si parlava sempre dei tedeschi nella commerciale, mai dei tedeschi nel credito italiano. Fitzmaier, per esempio, poco prima dello scoppio della guerra diventa amministratore delegato e lui, il secondo uomo dopo Rava, ha una posizione come Weil nella Comit, molto importante. Entra nei consigli di tutte le società controllate dal credito italiano, la società Elba per esempio e tutta la società siderurgica. Nel 1899 partecipa al Comptoir National des Comptes, una tipica banca di deposito francese, e due banche belghe, il Crédit Général Liégeois e la Caisse Commerciale de Bruxelles. Qui anche le stesse ragioni, il miglioramento politico, come per la Comit. Nel 1901 c'è una fusione con la Manzi e un nuovo accordo con la Warschauer, condizioni più miti per le relazioni con l'estero. Dunque un certo distacco dal vecchio partner tedesco. Nel 1904 viene assorbita la Warschauer dalla Darmstädter Bank e esce dal consorzio del credito. Entrano nuove banche francesi non nominate e la Banca Lloyd di Zurigo. Per l'aumento del 1907, da 50 a 75 milioni di lire, si forma un sindacato. 40% italiano, tedesco, belga, 20% svizzero, 40% francese. E entrano due nuove banche tipiche d'affari, la Banque Française pour le Commerce et l'Industrie e la Banque de l'Union Parisienne, legata al gruppo Schneider-Le-Creusot. All'inizio del 1914 la Comit ha 150 milioni di lire di capitale, il Credit meno della metà, 75 milioni di capitale. E la partecipazione tedesca nel credito italiano non è più elevata della partecipazione nella Comit, questo è molto importante. Non abbiamo un elenco per la distribuzione esatta secondo le varie nazioni del capitale e del credito. Ma se si guarda agli elenchi degli azionisti presenti nelle assemblee generali, si può notare che anche qui, dopo qualche anno, c'è una forte presenza svizzera. Nel 1904, 35% delle azioni pagate in Svizzera, forse anche per italiani. Dunque, italiani che mandano i titoli in Svizzera e ricevono per non pagare tasse, i tempi non hanno cambiato. Ma sono proprietari di questo capitale. Dunque, ma in Italia è registrato come capitale svizzero. Nel 1915 53% del capitale presente è svizzero, ma questo capitale presente rappresenta soltanto 14% del capitale totale. Dunque, i problemi di controllo si pongono qui. Alcune parole sulla struttura delle banche. Possiamo fare questa distinzione tra affari ordinari e straordinari. Affari ordinari, dunque, crediti in conto corrente, credito per il commercio corrente, eccetera. Affari straordinari, emissione di nuovi capitali per società, partecipazioni, eccetera. E il modello della banca cosiddetta universale tedesca, come si dice in tedesco, Universalbank, o in Italia si direbbe piuttosto la banca mista, è questa combinazione di affari ordinari e straordinari dall'inizio. E questo in contrasto col modello inglese, dove ci sono due tipi di banca: le società di finanziamento che fanno loro soltanto affari straordinari e le banche di deposito che fanno. Anche per la Francia c'è questa differenza, anche se è meno accentuata. In Francia ci sono, soprattutto dopo il 1880, prima non era così chiaro, ci sono le grandi banche di deposito, il Crédit Lyonnais per esempio, la Société Générale, che hanno una moltitudine di filiali nel paese, ricevono i depositi E poi abbiamo le tipiche banche di affari, come per esempio quella Banque Rouvier che ho nominato. Poi una banca, un tipo intermediario, intermedio, la Paribas, la Banque de Paris et des Pays-Bas, un po' secondo il modello tedesco, un po' secondo il modello della banca di deposito francese. E Joël menziona molto chiaramente come modello per la sua banca il modello tedesco e più specificamente la Deutsche Bank. Io ho visto i documenti e Gonfalonieri lo cita. In realtà direi che la separazione tra i due settori è difficile. Prendiamo per esempio il credito in conto corrente. Normalmente la banca dà un credito in conto corrente a un cliente per un anno, diremo, diciamo un milione di lire. Dopo un anno, se non c'è niente di speciale, se il cliente ha sempre la fiducia della banca, il credito è prolungato e questo può andare avanti per 10 anni. Dunque, se vogliamo, in un certo modo, se il cliente lo sa, questo credito ha breve termine, diventa almeno un credito a medio termine, se non a lungo termine. C'è soltanto il problema che la banca, se la situazione diventa difficile, può, come si dice, terminare il credito, può dire basta adesso, devi ripagare il credito. Ma in realtà le cose sono diverse. Questo lo fanno con buoni partners. E se la banca è molto, come dice, engagée, impegnata in questa ditta, non lo farà mai. Io dopo lo studio, per esempio, dell'archivio della Comit, dei verbali della Comit, ci sono pochi casi quando come si dice, zurückrufen, un credito. Quando revocano il credito. Sono enormemente piccole ditte. Le grandi ditte hanno il privilegio di non fare bancarotta. È come oggi. Perché cosa fa la banca? Poi, quando la ditta si trova in una situazione difficile, mette un uomo di fiducia in più nella ditta con l'obbligo espresso di risanare la ditta in un certo periodo, a un certo periodo. E poi, naturalmente, quest'opera di risanamento è accompagnata da condizioni abbastanza dure, dunque la metà del capitale deve essere ceduta alla banca, eccetera, eccetera. Così le banche tedesche, è un caso molto chiaro e provato, ma anche le banche italiane hanno sempre avuto un certo, fortunatamente ristretto, numero di ditte dolenti, che erano casi dolenti, e di quelle ditte avevano un pacchetto azionario. Ma per le ditte che non avevano difficoltà, mai avuto difficoltà, i pacchetti erano molto ristretti, avevano i loro uomini di fiducia nel consiglio di amministrazione, nell'interesse della ditta perché voleva i crediti e nell'interesse della banca perché voleva un certo minimo di controllo. Questo mi pare il modello reale di questa banca mista, un modello forse meno eroico che di quello che si parla sempre, ma un modello forse più realistico. Si vede per esempio che le banche possono anche rifiutare i crediti. Per esempio nel 14, all'inizio del 14, la Comit rifiuta un credito di 1 milione all'Ansaldo. Ansaldo, grande ditta, anche di un punto di vista politico molto importante. Dopo l'entrata dell'Italia in guerra, la Comit, perché dice l'Ansaldo, non ha ripagato un altro credito e non ci pare un'azienda molto degna di fiducia. Questo lo dicono molto chiaramente. Dopo l'entrata in guerra dell'Italia, offrono il credito di nuovo all'Ansaldo. Io direi due cause. Prima, naturalmente, dicono che questa è una ditta che occupata nell'armamento, dunque buoni affari, e seconda l'influenza enorme politica dell'Ansaldo nel 15. Non dobbiamo parlare di questo problema. Poi c'è il crescente importanza del credito ordinario in funzione alla crescita dell'economia e delle società sovvenzionate. Prima del 14 o negli ultimi anni, prima della prima guerra mondiale, 75 fino a 80% del profitto proviene dagli affari ordinari, per la Comit, ma anche per le banche tedesche. Dunque, è chiaro, con lo sviluppo economico, con la crescita economica di un'economia, c'è sempre la massa degli affari ordinari accresce, ma diciamo accresce relativamente e assolutamente. La massa degli affari straordinari accresce ancora assolutamente, ma relativamente declina. È una cosa che è un parallelismo molto importante per le banche miste tedesche e per le banche miste italiane. Adesso, qui ci sarebbe ancora qualcosa che forse, non so, ho parlato forse un po' a lungo già, se non possiamo farlo nel pomeriggio. Volevo mostrare casi tipici di finanziamento di queste due banche italiane miste, specialmente per l'industria elettrica, che mi pare molto interessante, e qui il coordinamento con gli investitori tedeschi, con le grandi società multinazionali tedesche di elettrotecnica, la AEG, la Siemens, la Schuckert. Ma mi pare che adesso ho parlato già troppo a lungo, soltanto che devo scusarmi dicendo che queste cose mi parono essere così importanti e che sarebbe difficile parlarne più in fretta e più brevemente. Qui poi ci sono naturalmente i problemi linguistici. Dunque, almeno direi come bilancio, se adesso escludiamo questo specifico problema finanziamento dell'industria elettrica che ci riserviamo per il pomeriggio. Direi che se guardiamo alle banche, la forza della nuova banca italiana deriva dal controllo internazionale dei membri dei consigli di amministrazione. Questo mi pare molto interessante. Se si vedono i verbali del consiglio di amministrazione, del comitato centrale, della Comit, del Credit, si vede sempre che questi stranieri controllano, dicono, ma dovete essere cauti, avete già avuto una grande crisi nel 93-94, poi c'è un certo, che noi chiamiamo in tedesco Lernprozess, vuol dire hanno imparato qualcosa di queste crisi, no? Non c'è dubbio. Dunque questi tedeschi e soprattutto gli svizzeri sono veramente interessanti, dicono perché investite nel Medio Oriente, in Turchia o dopo il 1907 ci sono questi investimenti italiani all'estero, ma sono cose politiche, ma voi siete troppo politicizzate, dovete guardare ai rischi e al profitto e vedrete che queste non sono cose che sono redditizie. Queste mi pare molto molto interessanti. Dunque io direi che è questo cosiddetto controllo internazionale, forse esagero un po', ma mi pare molto interessante questo controllo internazionale dai membri del consiglio di amministrazione, una favorevole congiuntura dopo il 1995-96 fino al 7 almeno, e un assetto istituzionale solido, la legge bancaria del 1893 e il ruolo della Banca d'Italia e di Stringa come direttore generale della Banca d'Italia, che stabilisce o che produce questo successo di queste banche, anche se il modello, al mio avviso, è molto, come si dice, vulnerabile il modello della banca mista. Si è visto poi negli anni 30, anche in Germania. E la crisi del 1907 in Italia, e le banche miste superano soltanto con l'aiuto della banca centrale della Banca d'Italia. E una piccola banca mista, la società bancaria italiana, fondata sul modello del credito italiano e della banca commerciale, fallisce quasi. Dunque, perché non ha il controllo e il background internazionale delle due grandi banche. Ma poi ci sono anche i limiti delle grandi banche italiane. Prima, da parte delle società multinazionali. Abbiamo visto che queste fondazioni tedesche, per esempio, si fanno senza le banche italiane, e poi per l'industria elettrica avrei potuto mostrare che è ancora più accentuato. È un caso che, per esempio, Confalonieri, a mio avviso, sottovaluta assolutamente. Poi, la crescendente dipendenza dalla grande industria. Il salvataggio dell'industria siderurgica italiana nel 1911 e la fondazione dell'istituto cotoniero nel 1913, dunque il salvataggio dell'industria cotoniera, si fa perché le grandi banche italiane sono forzate di farlo, sono troppo immischiate in questi settori e, al mio avviso, sono diventate prigionieri del sistema, sono così impegnati che non possono dire ma lasciamoli fallire, andare a loro, non devono salvarli, e per fortuna c'è una banca centrale e un direttore centrale di questa banca, Stringer, che è capace e anche che vuole intervenire, con l'assenso di Giolitti del resto. Poi c'è l'apparizione di banche nuove, ma senza grande successo fino alla fondazione della Banca Italiana di Sconto nel 14. Dunque la società bancaria italiana, come ho detto, che ha un certo successo, ma che è una cosa molto fragile e che nel 1907 fallisce quasi. Poi la Banca Italiana di Sconto nel 1914, con aiuto francese, ma questo è un altro discorso. Ma volevo dire soltanto che dopo il 1914 il ruolo duopolistico delle due grandi banche è finito. Dunque, con questa seconda parte del ruolo del capitale tedesco, ma anche internazionale, se vogliamo dire, nelle due grandi banche, voglio finire con la prima parte del mio discorso. Grazie e scusi per il tempo troppo lungo. Bellissimo, e rimpiango solo che la presenza non sia così numerosa, perché veramente è stata un'esposizione di una chiarezza e di una suggestione anche per i profani di questa storia, l'importanza anche attuale è uscita. Una meditazione continua sul passato e sul presente. Ecco, adesso interrompiamo per 10 minuti, così sì, ci riposiamo. Ecco, chi si ferma a colazione? Io naturalmente avrei molto piacere, siccome siamo così in pochi, che anche a tavola si continuasse fra tutti insieme a parlare. Prego, alzare le mani. Allora, 1, 2, 3, professor Garbari, no? Posso non insistere? 4, 5, là in fondo, 5, 6, 7, 8, 8. linguistico sa che la lingua è benissimo a esprimersi. Dopo un certo punto ci ha fornito una serie di elementi che mettono in discussione tutta una serie di interpretazioni su cui noi ci siamo adagiati. Dal lato della storiografia economica, ma anche dal lato della storiografia politica. Sì, c'è tutta questa interpretazione, per esempio, dell'influenza politica sulle motivazioni dell'investimento tedesco, che alla luce di quello che lei diceva, della distinzione tra investimenti e mi pare che sia molto importante. Normalmente non lo fanno mai. Un caffè, non so. Sì, grazie. Abbiamo una macchina un po' apprezzata.